4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. E allora, siamo pronti a partire. Buonasera amici dei motori, bentornati a Quattro Ruote e Dintorni, puntata ricchissima preceduta però dai nostri indirizzi. www.radio24.it per riascoltare tutte le voci che metteremo da lunedì sul web, magari risentire certi argomenti che vi interessano, e poi il nostro indirizzo email con il quale raggiungerete direttamente la nostra redazione motori, e cioè 4ruote@radio24.it. Inizieremo con la prova della KTM 690 Supermoto e diamo subito il benvenuto a Fabio Cormio da Due Ruote. Caro Fabio, buonasera. Grazie dell'ospitalità, buonasera a tutti, ciao Roberto. Dopo di te ci sarà il direttore di Due Ruote, così chiudiamo nel primo blocco di trasmissione il discorso Due Ruote con Luigi Bianchi, appunto terremo informati gli ascoltatori sul mercato della moto. Noi parliamo sempre di quello dell'auto, ma vogliamo una volta ogni tanto parlare di quello delle due ruote. Poi ci occuperemo di incentivi, sicuramente la notizia della settimana, arrivano gli incentivi che saranno commentati dal professor Malagodi, analista del Sole 24 Ore, e poi ancora il mercato delle auto in leasing, il rapporto sulla sicurezza di Decra, l'avvocato Lievore e tante altre notizie. Fabio, che moto è la KTM 690 Supermoto? Beh, guarda, sarebbe facile chiamarla soft motard, nel senso che non è una motard specialistica come ce ne sono naturalmente altre, molto più alte di sella, rigide, anche leggere e brutali nell'erogazione del motore. Ci sono però anche delle soft motard, quelle propriamente chiamate in questo modo, che sono delle moto con dei motori un po' più vecchi, ci viene in mente la Yamaha XT660X, ma anche altre, insomma, moto dall'impostazione motard, ma in realtà piuttosto obsolete nei contenuti, anche molto più molto più morbide, meno prestazionali. Questa KTM si pone nel mezzo per quello che riguarda l'impostazione, cioè è soft per quello che riguarda l'impostazione, piuttosto comoda. Noi tra l'altro l'abbiamo provata anche molto accessoriata, quindi quasi ne abbiamo fatta quasi una turistica, però per quello che riguarda il motore è assolutamente un riferimento. Il 690. Ne parleremo, non anticipare troppo, perché adesso arriva la scheda che ci spiega di che tipo di moto stiamo parlando. Per realizzare questo modello, KTM ha creato un nuovo motore da 654 cm3 a 4 valvole, che non solo rappresenta il primo monocilindrico a iniezione elettronica della casa austriaca, ma anche il suo primo monostradale con cambio a 6 marce. Una volta in sella, la 690 Supermoto ricorda quasi più una Naked che una motard, con il pilota che sta ben inserito e non troppo avanzato sul manubrio. Tra le curve, l'avantreno trasmette un ottimo feeling e la moto è rapida e precisa nel mantenere le traiettorie. Nell'utilizzo in coppia, la sella risulta poco imbottita per il passeggero. Nome: KTM 690 Supermoto. Dimensioni e pesi: interasse 1,46 m. Altezza sella 87 cm. Peso a vuoto 152 kg. Motore: monocilindrico a 4 tempi da 654 cm3, raffreddato a liquido. Distribuzione: monoalbero a 4 valvole, alimentazione a iniezione. Capacità serbatoio: 13,5 litri. Potenza: 63 cavalli. Trasmissione: frizione antisaltellamento a PTC, comando idraulico e cambio a 6 rapporti. Freni: anteriore, pinza fissa radiale a 4 pistoncini con disco da 320 mm. Posteriore, pinza flottante a pistoncino singolo con disco da 240 mm. Prezzo: 8.581 euro indicativi. E allora, queste sono le caratteristiche della KTM 690 Supermoto. Stavi dicendo del motore, Fabio? Eh sì, mi stavo lasciando trasportare perché stavo arrivando proprio al bello, nel senso che il motore è uno dei punti di forza di questa, sì, di questa motocicletta. Sono anni che erano anni che non c'era uno sviluppo sulle monocilindriche di questa fascia, a parte le specialistiche super motard. Invece il KTM ha fatto un grande lavoro. Questa moto è ormai fuori da 2 anni e però ha dato il via a una nuova famiglia. Questo motore è potente, sembra di guidare una bicicletta cilindrica, soprattutto vibra pochissimo, poi con questa frizione morbidissima, la APTC, che anche la funzione di antisaltellamento, insomma, è davvero divertente, un motore godibilissimo, pastoso già ai bassi, non è brutale nell'erogazione, poi anche la scelta dei rapporti è stata, secondo me, molto azzeccata. Sì, è una moto che su strada dà delle grandissime soddisfazioni. Allora, se sei d'accordo, diamo i voti a questa KTM 690 Supermoto e torniamo per due pregi e due difetti secchi e ci salutiamo. Dotazioni e comfort. Rispetto alle concorrenti, la KTM è una sella come si deve e una posizione di guida non affaticante. Completa anche la dotazione degli accessori, che ne fanno un mezzo adatto all'uso di tutti i giorni. Qualità percepita. Non sembra nemmeno una motarde, tanto è leziosa e ben rifinita. Questa KTM è di tutt'altra pasta rispetto alla maggior parte delle rivali, che sono più spartane ed essenziali. Motore. La KTM ha sfornato un mezzo che letteralmente vola e si lascia usare magnificamente. È molto elastico e ha un'ottima progressione. Su strada e versatilità. È in grado di affrontare anche trasferte più ad ampio raggio. Le sue caratteristiche dinamiche sono da stradale pura, agile e veloce nell'eseguire i comandi del pilota e sempre gestibile in ogni frangente. Freni. Si distinguono per potenza e modulabilità e sono sovradimensionati per assecondare anche la guida più impegnata. Prezzo? Altino, se si pensa che con la stessa cifra si può acquistare una Nuda più versatile e sofisticata. Fra le motarde dure e pure, comunque, la 690 Supermoto è quella che offre il miglior compromesso fra allestimento e prestazioni. Ecco, questi erano i voti della nostra pagella. Fabio, chiudiamo allora: due pregi e due difetti secchi per questa moto. Allora, prestazione del motore come pregi, primo pregio, e secondo pregio la stabilità incredibile per un mezzo di questo tipo, soprattutto sul veloce. Sì. Difetti, il prezzo che è un po' troppo alto, come si diceva durante nella pagella, e il parafango che è un po' troppo alto anche lui, proprio così come il prezzo, e quando si va veloce, si passa ad esempio su una pozzanghera, insomma ci si bagna, ci si schizza l'acqua e il fango addosso. Ecco, allora, signori eleganti, siete avvisati, del resto KTM 690 Supermoto ha nel DNA l'off-road, e anche se questa non lo è, insomma, evidentemente eredita anche qualche difetto, se vogliamo chiamarlo così, e invece per altri appassionati è un grande pregio. Grazie davvero da Due Ruote a Fabio Cormio, a presto e buona serata. Grazie Roberto, e mi unisco al coro, non è una moto per signorine, ma divertentissima. magari qualche signorina bella arrabbiata c'è, e si diverte anche fra le curve, arrabbiata in senso sicuro, come sempre. Passiamo al testimone però subito al direttore di Due Ruote, torna a farci compagnia Luigi Bianchi. Caro Luigi, direttore, buonasera, bentornato. Salve a tutti. Allora, noi parliamo spesso, lei lo sa, col professor Malagodi del Sole 24 Ore, di mercato dell'auto, lo faremo anche questa sera, sono momentacci. Ci illumina invece su quello che accade nell'ambito Due Ruote? Ma le Due Ruote nel 2008 hanno retto meglio dell'auto, ma anche perché il mercato è concentrato in primavera e quindi ha risentito meno della crisi che nella sua forma più forte è arrivata in autunno. Invece purtroppo è iniziato malissimo il 2009, perché a gennaio il calo complessivo è stato di 38,8% circa rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Va bene che gennaio è un mese che conta poco sul totale annuo, va bene che c'è stato un tempo orribile, però comunque sono dati che preoccupano. Proprio venerdì 6 invece sono passati gli incentivi governativi, per cui si pensa che in febbraio ci possa essere poi una ripresa del mercato anche sulla base di questa spinta. E infatti anche di questo parleremo. Influirà molto, secondo lei, come tutti si aspettano, nel settore auto o no? Penso di sì, ma soprattutto perché l'attesa degli incentivi aveva bloccato il mercato prima, tutti aspettavano che arrivassero e quindi dicevano vabbè, aspettiamo qualche settimana e vediamo se si risparmia qualche centinaio di euro. Per adesso gli incentivi riguardano il targato fino a 400 centimetri cubi, si tratta di 500 euro veicolo, ma si aspetta anche un accordo poi successivo tra costruttore e governo per quanto riguarda i 50 cc e gli elettrici, che per adesso sono rimasti fuori da questo provvedimento. Molto bene, senta direttore, un'altra domanda decisamente importante per il settore moto: si parla poco di abbigliamento e accessori, anch'essi rientrano in qualche modo nelle facilitazioni oppure si salvi chi può in un ambiente in cui molti si stanno lamentando? No, per adesso non se ne parla. Mi spiace che sia così, perché invece un qualche incentivo alla sicurezza, oltre ad aiutare il mercato, sarebbe molto importante anche per aumentare la coscienza degli utenti rispetto all'importanza di questi sistemi di prevenzione. Si parla di sicurezza soprattutto quando si parla di multe per i limiti di velocità, ma non basta. Credo che questo aspetto che abbiamo appena citato sarebbe importantissimo. Quattro ruote e dintorni. Bentornati da parte di Roberto Rasia. Luigi Bianchi, direttore di Due Ruote, ci stava parlando del mercato della moto. Chiudiamo, direttore, cercando di capire chi si comporta bene in questa fase e chi male. Ma chi si comporta meglio di tutti direi che Honda Italia con la famiglia degli Honda SH e gli scooter a ruote alte, tra l'altro... Nulla di nuovo, insomma. Nulla di nuovo, ma addirittura presenteranno brevissimo un modello completamente rifatto dell'SH 125, quindi per la concorrenza saranno dolori ancora più grossi di quanto non lo siano oggi. Sono un po' preoccupato invece per l'andamento dei prodotti italiani, anche perché a gennaio, per quanto sia poco significativo, in classifica li vedo molto indietro. E quindi forse servirebbe una spinta in più, qualche novità in più. Vediamo cosa succede poi adesso in realtà primavera, quando le novità si incominceranno a vedere. Molto bene, ringraziamo e salutiamo Luigi Bianchi, il direttore di Due Ruote. A prestissimo, direttore. Saluti a tutti. Allora, torniamo invece adesso all'argomento auto, perché dal mercato delle due ruote ne aggiungiamo due, arriviamo a quello delle quattro ruote con l'analista del Sole 24 Ore, Paolo Malagodi. Professore, buonasera. Buonasera Roberto. Questa volta non è tanto inizio mese, ci siamo già sentiti in realtà la settimana scorsa, ma la notizia che tanto aspettavamo è arrivata e ieri il governo ha deciso, era nell'aria ovviamente, incentivi sì, dunque. Incentivi robusti, questa volta davvero robusti, e con un parco di potenziali clienti allargato alle vetture immatricolate fino al 1999, quindi abbiamo una buona possibilità che questo mercato, che in gennaio, anche per il fatto di essere stato bloccato dall'effetto degli incentivi attesi, si risollevi. Questa è una notizia che il consumatore aspettava, che il mercato richiedeva, che altri paesi europei avevano già adottato, dalla Francia alla Spagna alla Germania e in parte anche l'Inghilterra, e che finalmente a oggi sono definitivamente approvati anche per l'Italia. Ecco, poi cercheremo naturalmente i dettagli, li commenteremo meglio. Comunque si parla di auto immatricolate fino al 1999, quindi con 9-10 anni di anzianità, per far fuori gli Euro 0, gli Euro 1 eccetera, per arrivare ad acquistare gli Euro 4, Euro 5. È sempre quello l'obiettivo: da una parte aumentare, si dice, il PIL dallo 0,5 all'1%, dall'altra quindi aumentare la produttività e i consumi, dall'altra far bene all'ambiente, professore. Sì, abbiamo anche dei vincoli, perché l'acquisto delle nuove vetture deve rispettare determinati livelli di emissione di CO2, cioè di anidride carbonica. Mi sembra che questi siano di 160 per i veicoli a benzina e di 140 per i veicoli diesel. Quindi abbiamo un contenimento della possibilità di acquistare con ecoincentivi fino a determinate cilindrate, e quindi questo provocherà anche un effetto. Già il passaggio da delle Euro 0, Euro 1 e vecchie Euro 2 a Euro 4 e anche Euro 5, perché ormai sul mercato ci sono delle Euro 5, produce un notevole beneficio. E poi questo ulteriore fatto che abbiamo dei limiti di emissioni. Però c'è un altro fatto che io sottolineo, che normalmente viene anche abbastanza dimenticato. Quando noi andiamo a prendere vetture di 10 anni fa, abbiamo ancora dei modelli che non hanno il servosterzo. Se andiamo a prendere delle Euro 0 e delle Euro 1, molte non hanno nemmeno il servofreno. Quindi abbiamo vetture nuove che sono dotate di servosterzo, servofreno, sì, ESP, dispositivi vari per la sicurezza attiva e passiva. Questo significa globalmente anche migliorare la qualità della circolazione, probabilmente anche, se i consumatori avranno il rispetto di alcune regole, anche ridurre la probabilità di incidenti, un risparmio di vite umane, di costi ulteriori. Aumento della sicurezza, decisamente. Chiudiamo, ma ci torneremo su, con una previsione, come sempre a bocce ancora in movimento. Secondo lei, a macro linee, che cosa succederà adesso sul mercato? Chi secondo lei approfitterà maggiormente degli incentivi, allora, professore? Ma le aziende generaliste che possono presentare sul mercato delle proposte di acquisto di vetture a basso inquinamento ambientale, di piccola cilindrata. Questo non solo per quanto riguarda Fiat, ma per quanto riguarda Citroën, Peugeot, Ford, Opel, la stessa Renault. Quindi il campo è molto vasto, ma anche in Volkswagen c'è un'ampia platea di vetture di questo tipo. C'è anche il fatto che di questo provvedimento avremo dei risultati sul mercato che dipendono molto anche dall'effetto psicologico. Se uno fa un calcolo puramente economico, dovrebbe ritenere che su un mercato che era proiettato a 1.750.000, questo numero degli ecoincentivi produrrebbe una valenza di un 10%, quindi andiamo a 1.920.000, 1.930.000. Però se andiamo al 1996, quando il mercato era 1.727.000, furono varati i primi eco incentivi, ci fu un'esplosione della domanda e si andò a 2.300.000, perché ci fu l'euforia di dire: beh, abbiamo questo vantaggio, bisogna approfittarne. Sì. Molto dipende da questo effetto psicologico. Certo, il momento economico, cioè, è quello che visti è. Visti i tempi è difficile. Io che ci possa essere un trascinamento anche superiore a quel 10% che dal punto di vista macroeconomico è la base del calcolo, ma confido in una maggiore capacità di ripresa. Una curiosità e ci salutiamo, non so se ha potuto guardare in qualche cartellone stradale oppure qualche spot, si era già mosso, per esempio mi viene in mente Ford e Citroen, si erano già mossi prima della definizione degli incentivi a livello di pubblicità, calcolando i tempi tecnici minimi, qualche giorno per realizzare anche velocemente uno spot, per montarlo, spiccherarlo e comprare gli spazi. Mi sembra che le case automobilistiche abbiano molta fame, stanno facendo di tutto per comunicare. Ci sono effetti psicologici anche in questo? Beh, le case erano pronte con delle campagne che in parte, lei ha citato Ford e Citroën, avevano anticipato. A questo punto partiranno tutte. Questo effetto è un effetto che le case vogliono promuovere, perché altrimenti le linee di produzione vanno a singhiozzo o addirittura, come in questo periodo, restano ferme. Quindi su questo effetto psicologia e, diciamo così, novità e impulso alla voglia del consumatore di approfittare di questa buona mossa governativa, credo si giochi molto la ripresa del mercato dei prossimi mesi. Grazie di cuore al professor Malagodi, analista del Sole 24 Ore, e a prestissimo. A presto. Rimaniamo in ambito mercato e incentivi, ovviamente è l'argomento di oggi per eccellenza. Pierluigi Del Viscovo, direttore del Centro Studi Fleet and Mobility, ci fa nuovamente compagnia. Caro Pierluigi, allora bentornato. Grazie, buonasera a lei e ai radioascoltatori. Ha sentito, stiamo parlando proprio di questo. Una vostra ricerca dice che sono circa 40.000 i posti di lavoro collegati naturalmente al settore auto che potrebbero essere salvati da questo intervento stabilito ieri venerdì. Allora io le chiedo questo: come siete giunti a questo dato e con che ragionamenti soprattutto? Allora, il dato è stato stimato in questo modo. All'incirca il settore automobilistico conta in Italia 400.000 addetti. In questi sono compresi tutti, anche coloro che i benzinai che erogano il carburante alla pompa, per capirci. Sì. Collegati direttamente alla produzione e vendita di automobili nuove sono all'incirca 180.000 addetti. Di fronte a una domanda di circa 1.800.000 automobili nuove in un anno, il rapporto, come lei vede, è 1 a 10, e quindi noi abbiamo indicato molto semplicisticamente che ogni 100.000 macchine che si muovono in più o si muovono in meno nelle vendite entrano in gioco 10.000 addetti. Sì. Questo è il calcolo che noi abbiamo fatto. Dopodiché lo abbiamo applicato a quella stima che è stata avanzata da alcune organizzazioni di categoria, che parlava di un possibile effetto, nel migliore dei casi, di 400.000 vendite in più rispetto a quelle che si farebbero senza gli incentivi, e quindi 400.000 significa all'incirca 40.000 addetti che vengono movimentati in positivo. Questa è la spiegazione del dato dell'analisi che noi abbiamo diffuso. Tuttavia devo dire che io concordo moltissimo con le parole che ho sentito da Malagodi. In termini di settore probabilmente non ci sarà un effetto tanto potente, perché non solo questo incentivo, questa rottamazione interviene dopo l'ennesima rottamazione che c'è stata già 2 anni fa, ma soprattutto in quelle passate il resto dell'economia andava abbastanza bene, c'erano ovviamente dei momenti migliori e momenti peggiori, ma in un'economia comunque mondiale che tirava. Il settore auto aveva bisogno di qualche sferzata, e queste sferzate davano i loro frutti attraverso le vendite aggiuntive. Adesso questa sferzata interviene invece in un momento di economia molto più critica, molto più rallentata. E quindi io sono un po' dubbioso che ci possano essere tutte queste vendite aggiuntive, 400.000 pezzi. È chiaro, però... il ragionamento è razionale e indubbiamente poggia su quelli che sono i momenti attuali che da settimane descriviamo in termini negativi, è chiaro. Esatto, però io concordo anche con l'altra parte di quello che diceva il professor Malagodi, cioè comunque sia, proprio perché l'economia è così critica e c'è una tale incertezza e sfiducia verso gli acquisti e verso i consumi da parte delle persone, una mossa su un bene così importante, perché è l'investimento durevole della famiglia, perché comunque è un giocattolo che piace, è molto attraente, è molto sexy, l'automobile, eccetera, è un'ottima cosa per poter ridare fiducia, impulso a tutto il sistema degli acquisti. Pierluigi, un minuto dedicato a chi vorrà domani lavorare nel settore dell'auto. Mi prometta un minuto, perché dobbiamo salutarci, il master che voi organizzate. È vero, la ringrazio della domanda. Noi stiamo partendo anche quest'anno con il master, partirà all'inizio di marzo. Stiamo facendo le selezioni dei partecipanti, sono selezioni molto severe ma molto ambite, perché il master è praticamente una preselezione voluta dalle imprese, dalle più importanti imprese del settore, che ci affidano questo compito di preselezionare dei giovani, di formarli, di applicarli in ricerche sul campo che fanno ogni anno con noi, e poi sono pronti per lo stage e l'inserimento in queste grandi imprese del settore. Quindi io invito i giovani a non pensare al momento di crisi, ma a farsi avanti, perché le imprese migliori stanno già pensando a quando avranno necessità fra un anno di giovani talenti da inserire. Bene. Quindi sul nostro sito trovano tutte le informazioni. Ripetiamo anche il sito ancora una volta e ci salutiamo. www.fleetandmobility.it. Bene, grazie a Pierluigi Del Viscovo, a presto e buona serata. Buonasera a lei, grazie. Quattro ruote e dintorni. Ecco, una notazione di precisione: esattamente i valori di consumo e di inquinamento attraverso i quali si potrà accedere per le auto Euro 4 ed Euro 5 nuove comprate agli incentivi stabiliti ieri dallo Stato sono 140 grammi per chilometro per quelle a benzina e 130 grammi per chilometro per quelle a diesel. C'è tempo fino al 31 dicembre 2009, 1.500 euro a disposizione per auto a metano e idrogeno, oppure 1.500 euro per tutti coloro che comprano un Euro 4, un Euro 5 rottamando un Euro 0, Euro 1, Euro 2 di 10 anni fa. Chi ce l'ha si faccia avanti, è una buona occasione. Adesso parliamo di rapporto di sicurezza stradale 2008, l'ha realizzato dopo 3 anni di studi con tutti i suoi esperti internazionali, DECRA, una realtà che si presenta per la prima volta in Italia, in realtà dopo averci già operato per anni e anni, è leader in Europa, quindi è il numero 1 e terzo al mondo per servizi tecnici dedicati al settore auto, una realtà quindi importante. Andrea Dalisca, direttore generale DECRA Revisioni, ci presenta il rapporto sulla sicurezza stradale DECRA 2008. Il rapporto è un frutto di un lavoro di 3 anni dei nostri esperti tedeschi su dati europei. Abbiamo elaborato milioni di dati di revisione di autoveicoli, migliaia di perizie da incidenti, li abbiamo incrociati con dati di altri enti e istituzioni internazionali e risulta che in linea di massima la sicurezza stradale in Europa è sulla buona strada. C'è l'obiettivo della Carta Europea per la sicurezza stradale, che è di ridurre entro il 2010 a 25.000 le vittime della strada, partendo da circa 50.000 del 2006. Siamo sulla buona strada, ma c'è ancora molto da fare, soprattutto in Italia, perché se guardiamo il trend europeo, il calo fatto 100 all'inizio del 91, dei dati più recenti disponibili, più interessanti, oggi l'Europa è mediamente a 56. I paesi industrializzati di riferimento, come la Germania e la Francia, sono a 45, l'Italia purtroppo è a 70. 80, quindi siamo ben indietro. È incredibile, il piccolo Portogallo, partendo da base 100, oggi è a 30. Voi vi occupate di revisioni, di controlli, di certificazioni. Qualcheduno potrebbe pensare che tutto questo dipende dalla bassa qualità dei prodotti automobilistici o delle strade. È sicuramente influente anche questo, ma un dato sconcertante è che il 94% dei casi che modificano poi il comportamento sulla strada è dovuto al fattore umano. Sì, esatto, è corretto, è vero. Dalle revisioni noi identifichiamo tantissime difettosità e soprattutto abbiamo visto che un veicolo di 9 anni ha 3 volte il rischio di pericolosità di incidente rispetto a veicoli fino a 3 anni. Ma come ha detto giustamente lei, nel 94% dei casi è attribuibile al comportamento umano. Abbiamo poi, estremamente interessante e importante, individuato alcune classi di rischio. Le classi principali sono i giovani dai 18 ai 24 anni e, incredibile, gli over 65, gli anziani, per motivi diversi, ma in alcuni casi paradossalmente simili. I giovani hanno una tendenza alla sovravalutare se stessi, pensano di saper guidare molto bene da subito, ma non hanno ancora quella prontezza nel traffico, nel riconoscere l'alta velocità, le distanze e quant'altro. Gli anziani invece hanno una presunzione dai tanti anni di guida alle spalle. Un altro aspetto comune è l'uso di sostanze che tendono a alterare le caratteristiche psicofisiche delle persone. Nei giovani, soprattutto, lo sappiamo, nei sabati sera c'è l'uso e abuso di alcol, accompagnato ultimamente anche dall'utilizzo eccessivo di stupefacenti, e dall'altro lato invece per gli anziani abbiamo l'uso e l'abuso di farmaci che tendono a limitare le capacità psicofisiche alla guida. Abbiamo anche aspetti proprio legati al fisico. Nei giovani, soprattutto nei fine settimana, e fine settimana sono il periodo più rischioso, dalle 7 di sera alle 5 del mattino, la stanchezza, l'alcol, la distrazione magari nel rientrare a casa, quant'altro, sono fattori di rischio. Per gli anziani invece abbiamo i deficit legati all'età, quindi difficoltà motorie, la difficoltà di coordinamento e quant'altro. Il pubblico potrà accedere a questi dati nel dettaglio al rapporto della sicurezza stradale 2008? Certamente, per noi è importantissimo perché fa parte della nostra missione di fare sicurezza stradale, fare cultura. Noi metteremo sul nostro sito in formato PDF il rapporto sulla sicurezza stradale 2008. Il vostro sito è? È www.decra.it. Allora, Decra si presenta per la prima volta, sinteticamente le chiedo di raccontare ai nostri ascoltatori non presenti evidentemente oggi alla presentazione chi è Decra Mondo, chi è Decra Italia. Decra è il primo fornitore di servizi tecnici a livello europeo, siamo i numeri uno a livello europeo e terzi a livello mondiale. Noi siamo specializzati in servizi nel mondo automotive, nel mondo industriale, sono soprattutto attività peritali, di certificazione, di controllo, e per quanto riguarda l'Italia siamo rappresentati da 5 società operative, 4 di queste gravitano intorno al mondo automotive e uno al mondo industriale. Le più note forse sono Decra Revisioni, con 700 centri di revisione a disposizione in Italia, che effettuano appunto la revisione periodica obbligatoria, Decra Automotive Service, che è fortemente attiva nell'ambito delle omologazioni di parti e componenti. Giusto per dare un'idea di quello che facciamo, oggi tantissimi veicoli che vengono offerti con l'impianto GPL sono omologati da noi. Quante revisioni realizzate ogni anno in Decra? Allora, come network, i nostri centri mediamente processano 1.300.000 veicoli tra auto e moto ogni anno. Da quando siamo operativi in Italia, cioè dal 96, abbiamo controllato oltre 14 milioni di veicoli. Grazie ad Andrea Dalisca, il direttore generale di Decra Revisioni Italia. Rimaniamo in argomento revisioni, abbiamo pensato allora di usufruire del nostro avvocato Lievore con il codice della strada in mano per conoscere meglio quello che dice la norma, naturalmente, sulle revisioni. Allora, diciamo che è il Ministro dei Trasporti che stabilisce l'obbligo di effettuare le revisioni del veicolo, e questo viene fatto sia per accertarne la sicurezza, ma anche per accertare quelli che sono dei canoni di silenziosità e soprattutto che i veicoli non producano determinate emanazioni inquinanti che superino in qualche modo quelli che sono dei limiti già prescritti. È quindi con un decreto del Ministro dei Trasporti che queste revisioni vengono richieste e previste in armonia con anche quelle che sono le direttive della comunità europee. Il Ministro dei Trasporti e comunque anche il Codice della Strada ci prescrivono dei tempi per effettuare queste revisioni, che vanno effettuate entro 4 anni dalla data della prima immatricolazione e successivamente invece ogni 2 anni. Per quanto riguarda invece chi si deve occupare delle revisioni, lo stabilisce anche questo la legge? Sì, anche questo è, diciamo, più che la legge, il Ministro dei Trasporti, che con una concessione quinquennale affida le revisioni a quelle imprese di autoriparazioni che svolgono l'attività nel campo comunque della meccanica, della motoristica, della carrozzeria, che siano iscritte nel registro delle imprese che svolgono attività di autoriparazioni. Quindi sono proprio queste imprese, officine, che effettuata la revisione trasmettono poi la motorizzazione competente sia la carta di circolazione che la certificazione della revisione effettuata, con indicate quelle operazioni che sono state eseguite, e in ogni caso anche l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente. Questo perché sia poi la motorizzazione ad annotare sulla carta di circolazione che la revisione è stata effettuata. Dopodiché l'officina va a ritirare di nuovo la nostra carta di circolazione e viene restituita all'utente. Dopo 4 anni da quando viene immatricolato un veicolo e successivamente ogni 2, perché evidentemente più un veicolo ha anni, più si dà per scontato che abbia tanti chilometri, abbia bisogno di una revisione maggiore, più approfondita, e quindi la si fa prima, ogni 2 anni invece che 4. Adesso le chiedo che cosa accade a chi invece guida la propria auto e la cui revisione è scaduta. Allora, l'articolo 80 del Codice della Strada prevede espressamente delle sanzioni amministrative per chiunque circoli con un veicolo che non è stato presentato alla prescritta revisione. Questa sanzione varia da 148 euro a 594 euro, raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta. E in ogni caso a queste sanzioni si aggiunge anche una sanzione sempre amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, quindi una sanzione che si aggiunge e non ci permette di circolare con il nostro veicolo. Ecco, avvocato, un'ultima cosa. Facciamo finta che una persona particolarmente sfortunata, uscita dalla revisione, abbia un incidente durante il quale non si fa nulla, però il veicolo è parecchio ridotto male. Ripara l'autovettura. Possiamo ipotizzare che la sua auto, dopo l'incidente grave, non sia più in condizioni di sicurezza? Sì, questo è sicuramente ipotizzabile, ma saranno gli organi della Polizia Stradale che eventualmente intervengono per gli opportuni rilievi in caso di incidente particolarmente grave, che se ritengono di avere un dubbio riguardo alla sicurezza del veicolo per la circolazione, quindi che non siano più rispettati quei termini che abbiamo detto essere di sicurezza, farà una segnalazione alla motorizzazione competente per provvedere ulteriormente alla singola revisione del veicolo, quindi che sia rimesso a norma secondo quei canoni di sicurezza. Ricordando che ogni revisione deve essere conforme a quelle che sono delle tariffe emanate ogni anno con decreto del Ministro dei Trasporti, che stabilisce in accordo col Ministro del Tesoro quelle che sono quindi dei canoni, delle tariffe da applicare obbligatoriamente anche dalle officine in cui portiamo il nostro veicolo a fare la revisione. Grazie al nostro avvocato Erika Lievore di Milano e alla prossima puntata per conoscere meglio il Codice della Strada. Chiudiamo il discorso revisioni con Mario Rossi di Quattro Ruote. Caro Mario, bentornato. Bentornato a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Visto che ci siamo, ci ricordi quanto costa una revisione? Una revisione fatta in un'officina autorizzata costa circa 65 euro, 64,80 euro per la precisione, ed è una tariffa che le associazioni di categoria si sono impegnate a rispettare. Ovviamente in questa cifra non è compreso l'eventuale bollino blu ed eventuali interventi sulla macchina. Certo, che fanno arrivare a dei balzelli a una cifra superiore. Molto bene, quindi chiuso il discorso revisioni, che riascolterete se vorrete su radio24.it da lunedì. Chiudiamo allora con Mario Rossi la trasmissione. Ti avevamo promesso un appendice del discorso della scorsa settimana: come si comportano nell'usato le auto di alta cilindrata di un certo livello e le utilitarie. Mario. Beh, siamo andati a vedere cosa stava accadendo sul mercato in questa fase di crisi. Abbiamo scoperto un po' di cose interessanti, per esempio che le quotazioni delle macchine, delle utilitarie, quindi dei segmenti A e B, tengono bene, quindi sono macchine che si svalutano, sì, poco, e quindi chi ha una macchina relativamente recente di 3, 4, anche 5 anni, come abbiamo scritto noi, ha un piccolo tesoro perché vale abbastanza sul mercato, è molto facile rivenderla e può essere anche una buona occasione rivenderla per comprare un'auto nuova di pari categoria o anche leggermente superiore, visti i forti sconti che ci sono, certo, sul mercato, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Per quanto riguarda invece le auto di cilindrata superiore, Mario? Persiste al fenomeno opposto, c'è una sensibile diminuzione delle quotazioni, soprattutto nel segmento D, quello della BMW serie 3, della Alfa 159, tanto sì, per capirsi, e quindi in quel caso chi ce l'ha, se la deve rivendere, probabilmente sarà costretto ad accettare un prezzo inferiore. Può essere naturalmente un'occasione invece per chi la compra. Certo, bisogna comprare, non vendere, ammesso di avere i soldi in questo momento, l'abbiamo già detto più volte. Mario, grazie di cuore per la tua compagnia di questa sera, il tuo intervento, a presto e buona serata. Grazie a te, buona serata a tutti gli ascoltatori. I ringraziamenti migliori vanno però per voi ancora una volta che ci avete scelto. Ogni sabato alle 21 siamo qui pronti a soddisfare i vostri dubbi, ce li potete inviare a 4ruote@radio24.it. grazie, buona serata e soprattutto buona guida da parte di Filippo in regia e Roberto Rasia al microfono.